Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la prima della settimana. Vabbè, oggi parleremo anche di altre cose, di altri settori, del nostro export, della chimica, delle banche che assumono, perché Banca Intesa sta per assumere più di 1000 persone. Non parleremo tanto di mercati, ne parleremo in maniera fisiologica. Vi dico subito però che la scena è già andata in onda la settimana scorsa, sia borse europee che perdono un pochino e Milano che perde 2 o 3 volte di più, va in onda anche oggi, perché Parigi meno 0,80, Francoforte più 0,40, l'America meno 0,12, Londra più 0,82, Milano meno 3%, per cui siamo tra i 2 e 3 punti percentuali peggio delle altre borse europee. L'euro è a quota 1,2640, leggermente in rafforzamento nei confronti del pound a 91 pence per un euro. I titoli, insomma, da noi è di nuovo il settore bancario che sta affossando il listino, perché un meno 3% porta il MIBT sulla soglia dei 10.400 punti, per cui qua si inizia a intravedere la soglia di 10.000. Ma dicevo, le banche: Banco Popolare meno 9,57, Mediobanca meno 9,46%. Seat Pagine Gialle meno 8,14, Fastweb meno 8, GR L'Espresso meno 7,3, Unipol meno 6,7 come Monte dei Paschi, e anche la Popolare di Milano perde il 6,6 come Alleanza, e Generali perde il 5,5, un 5% lo perde anche Intesa San Paolo e il 4,60 UbiBanca. Si segnala a questo punto solo Unicredit, che guadagna uno 0,3%, ma a 72 centesimi di euro. Tiscali, profondo rosso, il titolo sospeso per eccesso di ribasso ha perso il 47% oggi, e qui avremo anche un approfondimento su Tiscali per capire che cosa. Beh, la notizia l'abbiamo data anche venerdì, la rottura delle trattative con BSkyB ha praticamente affossato il titolo, che a questo punto non è chiaro il destino industriale del gruppo Tiscali. Vale in questo momento 15 centesimi di euro. Io ricordo, per inciso, quando Tiscali, in piena bolla internet, arrivò a capitalizzare in borsa come la Fiat. Erano, vado a memoria, il 2001, aprile 2000. Altri titoli invece per quello che riguarda il listino, oltre a Tiscali, male anche il Monte dei Paschi meno 6,6, dicevamo, e Unipol meno 7, ma anche Fastweb che perde il 7,80%, e nei titoli industriali citiamo anche Fiat meno 4%. Di positivo c'è solo Saipem più 2,4%, Tenaris più 1%, Eni più 0,80%, Geox mezzo punto percentuale di rialzo, e appunto Unicredit più 0,3%. Ultima cifra e poi le notizie in breve. Quella per i vostri sms: 349-238-6666. E in rafforzamento oggi anche il petrolio, perché è tornato a 48 dollari al barile in attesa dell'annunciato taglio delle quote di produzione da parte dei paesi OPEC, i principali esportatori di petrolio al mondo. 48 dollari vuol dire quasi il 5% di rialzo il barile, e i paesi OPEC lo decideranno il prossimo 15 marzo a Vienna. Parleremo fra poco del settore della farmaceutica e anche della chimica. Oggi una maxi offerta, il colosso tedesco Merck ha offerto 41 miliardi di dollari per comprare la rivale Schering Plough, con un premio del 34% rispetto alle attuali quotazioni. Chiaramente, scusatemi, ho detto tedesco, la Merck è americana. L'offerta da 41 miliardi di dollari, altrimenti sarebbe stata in euro, riguarda tra l'altro farmaci cardiovascolari, respiratori, oncologici, immunologici e neurologici. Le vendite combinate delle due società, cioè quanto è il giro d'affari delle due società, arriva a 47 miliardi di dollari. E comunque offre un 34% più rispetto alle quotazioni e il titolo sharing infatti è salito del 22%. L'Euribor scende all'1,70%, tassi, effetto Banca Centrale Europea sui tassi dei mutui, sono scesi infatti a gennaio sotto il 5%, al valore minimo da oltre due anni. Questo lo ha detto la Banca d'Italia nel supplemento al bollettino statistico. Il tasso medio sui nuovi prestiti bancari alle famiglie è sceso al 4,78% contro il 5,08% di dicembre. Questa mattina era, cambiamo argomento, è andata male Tokyo, meno 1,2%, il minimo a livello di punti per il Nikkei da 26 anni a questa parte, e questa mattina si era temuto molto per Wall Street. Ripeto, tutte le borse europee stanno recuperando, con Francoforte e Londra in positivo e anche l'America. Milano continua a perdere il 3%. Allora, sempre sul fronte della crisi, oggi il colosso americano American International Group, ossia AIG, colosso assicurativo dove lo Stato ha già dovuto buttare dentro decine e decine di miliardi di dollari in AIG, oggi il gruppo ex colosso ha scritto: attenzione, se noi crolliamo, l'ho fatto in un documento di 21 pagine, trascineremo con noi altre società di assicurazioni e costringeremo anche le banche europee a nuovi aumenti di capitale. In sostanza si avrebbe un effetto Lehman Brothers ancora più alto e ancora più catastrofico. Warren Buffett, il guru finanziario, in un'intervista oggi da CNBC. Continuiamo con il diario della crisi. Da previsioni abbastanza fosche nel breve, ma dice anche da questa crisi come altre si uscirà. Ever since we talked in September, we talked about it being an economic Pearl Harbor and how. Da quando in settembre abbiamo parlato di una Pearl Harbor economica e di come quanto succedeva a livello finanziario si sarebbe propagato al mondo reale, l'economia statunitense è caduta in un precipizio. Non solo è molto rallentata, ma le persone hanno radicalmente cambiato il loro comportamento in un modo mai visto prima. I beni di lusso hanno accusato una forte frenata ed è per questo che invece le vendite di Walmart vanno così bene. I consumatori hanno completamente riorganizzato il loro modo di pensare e hanno cambiato le abitudini di acquisto. Certamente la crisi è arrivata molto vicina allo scenario peggiore, ma la Federal Reserve ha intrapreso delle azioni che hanno mantenuto acceso il motore dell'economia. I consumatori sono impauriti e la paura è contagiosa. Non ho mai visto gli americani così spaventati e anche così confusi. Ci si può impaurire molto velocemente, ma non si può riacquistare la fiducia in 5 minuti. La fiducia non tornerà per qualche tempo ancora e il governo giocherà un ruolo fondamentale sulla velocità con la quale verrà riacquistato un clima di fiducia. Quando si è spaventati e confusi, non si smette di essere spaventati se prima non passa la confusione. Il messaggio deve essere molto, molto chiaro su ciò che il governo farà. Io credo che siano stati lanciati molteplici messaggi e anche se questo è tipico della politica in certo qual modo, gli americani percepiscono che non si sa esattamente dove si sta andando e allora continuano ad essere timorosi. Beh, importante quanto dice Warren Buffett, che è considerato uno dei guru, dei massimi investitori al mondo, sui tempi per ricreare la fiducia, e lui ne sa qualcosa, ossia non, se ci metti un po' a distruggere non puoi ricrearla in 5 minuti. Lo dico perché adesso iniziamo il nostro approfondimento, come sempre, sul diario di questa crisi. Perché se da un lato in Islanda, ma ormai l'Islanda è un pezzetto di provincia europea, anche l'ultima grande banca rimasta indipendente, la Straumur Burdaras Investment, è fallita, cioè è andata verso la nazionalizzazione, aveva 33 milioni di euro di debito in scadenza oggi, ma ne va in cassa solo 15. In realtà oggi arrivano segnali abbastanza diversi sulla crisi, le dimensioni e la sua durata. E non è solo, non ha solo a che fare con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi. Un attimo solo che ci arriviamo, lo dico a chi scrive. Attenzione, perché oggi il Presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha detto nel 2009 la crescita globale sarà a zero. E questo fa il paio con quanto detto ieri dalla Banca Mondiale, che ha detto per la prima volta nel 1945, dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, per la prima volta si contrarrà, ossia ci sarà il segno meno sul PIL, sulla crescita economica di tutto il mondo, quello che si chiama PIL mondiale. E il commercio mondiale dovrebbe registrare la contrazione, il calo più forte degli ultimi 80 anni. Cito sempre le fonti, così non lo dicono i giornalisti, lo dice la Banca Mondiale da New York, che sta preparando il documento in vista del vertice di inizio aprile a Londra dei G20, quindi gli 8 paesi, allargato poi a Russia, Cina, India, cioè tutti uniti appassionatamente cercando di uscire dalla crisi. Però Trichet, nel dare ragione alla Banca Mondiale e che nel 2009 l'economia sarà ferma a zero a livello mondiale, ha anche aggiunto: l'economia resta infrenata, ci mancherebbe, però ci sono alcuni elementi positivi un po' sottovalutati, per esempio il calo del prezzo delle materie prime e i piani di rilancio messi in campo dai governi. Come dire, attenzione, perché questi effetti magari non subito, ma nel medio si scaricheranno sull'economia in senso positivo. Però poi è arrivato l'allarme chiaramente del Comitato per l'Occupazione e la Protezione Sociale della Commissione Europea, che ha detto senza misure tempestive nel 2010 vi saranno 6 milioni di disoccupati in più in Europa, con gravi conseguenze sociali per le famiglie, per le persone e forse anche sull'ordine pubblico. Però dicevo, segnali contrastanti, visto che Trichet, mi sembra che sia da agosto dell'anno scorso che non sentivo una nota vagamente positiva dalla Banca Centrale Europea. Di questo ha parlato oggi anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, alcuni di voi l'hanno già ascoltato nei nostri GR, lo ha fatto a margine, anzi intervenendo all'inaugurazione del Cisco Business Center a Vimercate. Ha detto Berlusconi: non ci saranno situazioni di miseria in Italia, per fortuna siamo un popolo di risparmiatori. Non abbiamo la fortuna tanto di essere un popolo di risparmiatori, e pensate alla differenza di un americano che perde il posto di lavoro e di un italiano. L'americano normalmente, visto che consuma verso il futuro, non ha un conto in banca positivo, in attivo, non ha l'assistenza sanitaria, non ha la cassa di integrazione, ha un mutuo il cui importo di rata è aumentato. Noi in Italia abbiamo le famiglie italiane che mediamente per l'87% sono proprietarie della propria abitazione. I mutui per quelle famiglie che hanno acceso un mutuo sono stati fermati a quella cifra del 4% al mese, che non può essere superata, con perciò un prolungamento del tempo di pagamento per le banche. Normalmente, ripeto, le nostre famiglie hanno comunque un conto in banca in attivo, hanno la più completa assistenza sanitaria e hanno la cassa di integrazione, che per come è fatta consente al governo di intervenire praticamente in tutte le direzioni. E poi l'appello agli imprenditori, ha detto se è possibile non leggete i giornali, e poi ha aggiunto ai dipendenti delle aziende di non cambiare, li ha invitati a non cambiare le proprie abitudini economiche anche in tempi di crisi, e ha ricordato che il governo ha messo a disposizione 150 miliardi per il sistema imprenditoriale italiano. Non so specificare come, poi a noi risultano cifre molto più basse come iniziative concrete. Comunque oggi il segretario della CGIL Epifani, sempre come pagina politica, ha chiesto un incontro urgente alla CISL e UIL per fare fronte comune contro la crisi, mentre a Milano si è parlato di crisi e di export soprattutto nel convegno organizzato da Sole 24 Ore, Summit Made in Italy, la sua quarta edizione, internazionalizzazione delle imprese italiane oltre la grande crisi. Convegno che viene da due anni, in cui 2007-2008, in cui il nostro export è andato particolarmente bene, più 4% nel 2008 sul 2007, ma il biennio 2009-2010 andrà in maniera difficile. Ripeto, la Banca Mondiale ha detto che vi sarà la maggiore frenata nel commercio estero degli ultimi 80 anni. E allora le misure messe in atto dal governo, quelle che vorrebbe mettere in atto, il nostro Paolo Piacenza ha chiesto lumi ad Adolfo Urso, sottosegretario allo sviluppo economico con delega al commercio estero, proprio a margine del convegno organizzato da Sole 24 Ore. E Urso è preoccupato per un rischio Argentina che potrebbe colpire tutto l'est Europa. Sin dai primi mesi della crisi, dal settembre-ottobre l'anno scorso, abbiamo varato un piano straordinario di sostegno all'internazionalizzazione con l'intervento rafforzato dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, che ha aumentato le risorse per la promozione quest'anno, 180 milioni di euro, con l'intervento della Simest, che ha rimodulato i propri interventi appunto per facilitare il supporto alle imprese che hanno investito all'estero, e con quello della SACE, che ha garantito una massa critica di oltre 5 miliardi di euro per quest'anno per poter sostenere l'assicurabilità dell'esportazione degli investimenti italiani all'estero. Sappiamo che la crisi è drammatica, che colpisce soprattutto i paesi sui quali le nostre piccole e medie imprese si erano diretti negli ultimi anni. Parlo in modo specifico dell'Europa centrale orientale, se pensiamo alla Romania, ma anche all'Ucraina e a tutta questa Europa danubiana, che potrebbe diventare, ce lo auguriamo no e lavoriamo perché non accada, una nuova Argentina. Eh sì, questo è il fronte più delicato, la tenuta dei conti dell'Europa dell'Est, perché un conto è assorbire l'Islanda, visto che ne parlavamo prima, anche l'Irlanda, anche la Grecia, un conto è gestire Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e quant'altro. Ma andiamo avanti con il nostro export, perché di export e di mercati esteri ha parlato oggi, immagino, il convegno anche Paolo Zegna, che è vicepresidente Confindustria per l'internazionalizzazione. Sempre al microfono il nostro Paolo Piacenza. E invitando anche l'impresa a continuare ad aumentare la presenza nei mercati in cui siamo meno forti. Io credo che ci deve essere, su quello che di buono è stato costruito dalle grandi imprese, dai grandi marchi, chi il segue e approfitti a vedere una situazione che si è venuta a creare. In certi mercati la seconda fascia non è del tutto conosciuto, quindi sta da una parte trascinarseli dietro, dall'altra quello della volontà delle piccole e medie imprese di dire voglio effettivamente provare anch'io ad esserci. Ci dovrebbe essere un premio all'internazionalizzazione, un aiuto da parte del governo che dice chi oggi effettivamente fa questo discorso proiettato in avanti come investimento per il futuro va premiato, nella formula che poi si deve probabilmente studiare, ma che dia un aiuto concreto perché chi veramente lo vuole fare si metta a seguito di chi l'ha preceduto e colga anche lui delle opportunità. Vede un rischio per la libertà dei mercati dalle provvedimenti che vengono presi in questa fase? Tutti dicono io non lo voglio, però il rischio del protezionismo indubbiamente c'è e io credo che in effetti dovremmo rispolverare gli accordi del WTO. Questo metterebbe a tacere queste voci di protezionismo che ogni tanto si sentono. Credo oggi sia necessario effettivamente mettere un po' di governance tra i 152 paesi che fanno parte del WTO. Però dicevamo anche che la crisi in alcuni casi può essere un'opportunità, pensiamo a quanti concorrenti anche di aziende italiane, concorrenti tedeschi, francesi, spagnoli, britannici, possono essere più in difficoltà in questo momento e magari uno ne può anche approfittare. Ne è convinto anche l'amministratore delegato della Simest, Massimo D'Aiuto, che dice la Simest assiste o dovrebbe assistere in larga parte le imprese italiane sul fronte anche finanziario quando vanno all'estero, e lui nota qualche opportunità. Sentiamo. Le situazioni di crisi come quella attuale innanzitutto sono crisi sì di carattere globale, però che lasciano spazi proprio perché si apre una turbolenza forte a chi ha capacità di prodotto e tecnologiche e organizzative per affrontarle. In altre parole, il mio non è un ottimismo di chi sta due palmi sulla terra, Noi siamo con i piedi per terra perché lavoriamo con tutte aziende del manifatturiero, anche delle grandi opere. Questo è un momento dove ci sono tante opportunità, bisogna essere selettivi su quali cogliere e come coglierle. E questo è il nostro lavoro, proprio questo, cercare di prendere tutti gli spazi possibili sui mercati in evoluzione in questo momento, e ci sono, perché parliamo non solo del Medio Oriente, ma dell'Africa, dell'Asia centrale, ma parliamo poi nel settore manifatturiero anche di paesi che stanno mutando i rapporti, e quindi riuscire a mantenersi in posizioni quantomeno di tenuta delle quote di mercato sui mercati che flettono già è una cosa positiva. Il problema poi importante in questa fase è proprio la durata della crisi, perché su quello che sarà il dopo io sono veramente ottimista. Allora, io lo dico a chi scrive, attenzione, vedere qualche opportunità non è una scelta politica, distinguiamo sempre dalle dichiarazioni politiche pro o contro, cioè pessimiste o ottimiste sulla crisi, e dichiarazioni manageriali. È chiaro che questa crisi sta facendo tabula rasa di alcuni gruppi bancari, di posizioni professionali, penso ai manager di banche, assicurazioni, ma non solo, dei valori di borsa e quant'altro, però è anche chiaro che in alcuni casi potrà rappresentare un'opportunità di acquisto o di concorrenza più forte rispetto a gruppi che si sono indeboliti. A patto però che alle nostre imprese venga mantenuto aperto il credito. Questa è la grande sfida, se no questa crisi si trasformerà da finanziaria in economica, l'ho già fatto, e da economica in occupazionale. Questo è l'invito anche di Luisa Todini, presidente della Holding Todini Finanziaria S.p.A. e vicepresidente della Federazione Industria Europea delle Costruzioni, sempre al microfono del nostro onnipresente al Summit Paolo Piacenza. L'imprenditore by definition non può essere pessimista, però nel momento di crisi deve trovare l'opportunità magari per rinnovare il proprio modello di business, quindi diventa anche un'opportunità per razionalizzare l'organizzazione, per innovare il processo e il prodotto e per migliorare la qualità. Cosa fondamentale è il credito. Molte aziende sono costrette paradossalmente a veder ridurre il fatturato, ad impostare una riduzione del fatturato proprio perché devono ridurre il capitale investito e quindi non possono permettersi di fatturare maggiormente perché devono investire. Quindi se c'è un ritorno di fiducia, di consumi e di produzione, però deve essere accompagnato da un credito che valuti il debito aziendale, che sia un debito sano. E dopo l'informazione meteo continuiamo a parlare di vari settori industriali, perché giustamente a mio avviso alcuni di voi ci hanno detto: ma avete fatto in queste settimane, avete parlato soprattutto delle banche, delle assicurazioni. Chiaro, erano la notizia. Anche oggi Mediobanca, per non sbagliarsi, ha perso il 9,36%, il Banco Popolare ha perso il 9,13%, per cui facendo giornalista e non un altro lavoro la notizia viene prima di tutto. Quando riusciamo a respirare però anche altri settori vanno osservati, abbiamo fatto col calzaturiero, col tessile, col legno arredo, con la meccanica industriale. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni. Arriveremo come sempre anche alla borsa, chiuso un po' meglio, meno 1,6, meno 1,8 Milano, meno 2,2 l'S&P MIB. Peccato però, perché nel resto d'Europa è quasi tutto positivo, tranne Parigi che perdono 0,6, Francoforte più 0,7, l'America più 0,2, Londra più 0,6. Che cosa manca? Manca a questo punto l'Eurostock 50 meno 0,5, insomma tutto bene, quasi bene in Europa. Milano continua a perdere 2 punti più della media, e questo perché le banche vanno molto male anche oggi. Banco Popolare meno 9,6 come Mediobanca, pesante oggi Mediobanca, Popolare Milano meno 6,3, Unipol meno 5,80, Alleanza meno 5,70, Monte dei Paschi meno 5,2, Generali meno 4,2 e via così. Si è salvata oggi Unicredit, che alla fine ha guadagnato l'1,4%. Bene Saipem più 3,20, Tenaris più 2,5, Eni più 2% e anche Mediolanum più 1,6. Poi c'è il caso Tiscali, ne parleremo tra un attimo. Tiscali è sprofondata, non so dove andrà a finire a questo punto, meno 47,6% dopo l'interruzione delle trattative con Sky B. Avevo annunciato però un approfondimento su un settore produttivo, cosa che cerchiamo di fare al di là, quando la cronaca ci lascia respirare. Parliamo oggi della farmaceutica, ma soprattutto della chimica. Farmaceutica che torna al centro dell'attenzione perché dopo che a fine gennaio Pfizer, il colosso americano, ha raggiunto l'accordo per acquistare la casa farmaceutica statunitense White per circa 68 miliardi di dollari, sempre a fine gennaio la Svizzera Roche aveva lanciato un'offerta ostile di da 44 miliardi di dollari, tutti in contanti tra l'altro su Genentech. Oggi altra notizia che riguarda la farmaceutica che si sta muovendo all'interno di questa crisi, ossia la Merck, il gruppo farmaceutico americano Merck, ha offerto 41 miliardi per il gruppo rivale Schering Plough e valuta il titolo il 34% in più dell'attuale quotazione. Infatti il titolo della Schering è cresciuto oggi ha guadagnato più del 20%, tra l'altro un'operazione che permetterebbe a questo punto di generare un gruppo con oltre 43 miliardi di valore di vendite. 47 miliardi. E questo per quello che riguarda la farmaceutica. La chimica, si diceva, andiamo a vedere cosa sta capitando, e lo facciamo con il presidente di Federchimica, Giorgio Squinzi. Buonasera. Buonasera. Poi parleremo anche della sicurezza sul lavoro, perché oggi avete avuto un'iniziativa importante. Però andiamo ai dati di settore. Veniamo da una giornata oggi in cui, se da una parte si fa notare a livello europeo il record di disoccupazione che potrebbe essere toccato tra quest'anno e l'anno prossimo, dall'altra parte la Banca Centrale Europea dice qualche segnale di ripresa c'è, dovremmo arrivare nel 2010 questa ripresa, il 2009 sarà piatto. Ecco, vorrei capire nel vostro settore, che significa 58 miliardi di produzione come valore, 22 miliardi di export, 130.000 occupati, e l'Italia al terzo posto dopo Germania e Francia come produttore nel settore chimica, nel vostro settore è tutto un segno meno o la situazione è più in chiaroscuro? Ma diciamo che lei sa, Federchimica rappresenta 17 diverse associazioni di settore e all'interno della chimica italiana abbiamo una situazione molto variegata. Abbiamo dei settori che stanno tenendo, sostanzialmente tenendo, che sono poi essenzialmente quelli legati alle materie prime farmaceutiche e i farmaci da banco, che fanno parte anch'essi di Federchimica, e questi, i bisogni primari stanno tenendo, quindi la farmaceutica, tutto quello che è legato al settore farmaceutico, l'alimentazione umana, l'alimentazione animale. E poi, perché pare che in tempi di crisi la gente si voglia coccolare un po' di più, anche il settore della cosmetica e della profumeria rappresentato dalla nostra associazione Unipro. Questi settori sostanzialmente stanno tenendo. Gli quindi altri settori di base non comprimibili, anche se la cosmetica tendenzialmente potrebbe essere comprimibile, ma lì è più un problema di scelte. La chimica per l'alimentazione animale, lei ricordava, e appunto anche elementi più accessorio. Dov'è che invece la crisi, anche il settore della chimica la sente? Le associazioni che stanno mostrando cali drammatici che variano dal 20 al 50% sono quelli legati all'automobile, al mondo della costruzione, al mondo dei beni alla produzione dei beni strumentali. Un caso particolarmente drammatico che abbiamo è quello delle fibre, quindi una situazione veramente dove ci sono delle cifre estremamente negative che hanno cominciato a peggiorare notevolmente nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, ma che nei primi due mesi di quest'anno sono diventate assolutamente drammatiche. Ecco, siete anche in grado, visto che avete una, mi sembra di capire, proprio una diversità forte tra quei settori che per vari motivi, in primo luogo perché non comprimibili, tengono, e settori invece che forniscono chimica, prodotti chimici, chiaramente all'industria dell'auto, pensiamo alle vernici, ma alle edilizie e quant'altro, e beni anche strumentali che hanno cali tra il 20 e il 50%, che vuol dire problema serio. Sì, sì, assolutamente, grosso. Confermo. Ecco, avete, ma adesso la sommatoria non l'abbiamo ancora fatta, possiamo anticipare una sommatoria per l'anno scorso di tutti i settori che dovrebbe essere all'intorno del meno 5. Perché effettivamente l'ultimo trimestre avevamo sperato di essere all'intorno del meno 1, meno 2, ma i dati finali dell'ultimo trimestre ci hanno costretto a rettificare al meno 5 su tutto l'insieme della chimica italiana. I primi due mesi di quest'anno, probabilmente considerando l'impatto che le ho detto dei settori legati a auto, edilizia, costruzione, auto edilizia e beni strumentali in generale, beni di investimento in generale, probabilmente il numero, la sommatoria è molto più negativa del meno 5. Quindi non registrate in questo momento miglioramenti, questo mi sembra chiaro. Ma guardi, miglioramenti no, anche se c'è qualche timidissimo segnale di ripartenza nel consumo delle materie plastiche e un altro segnale che è il prezzo dell'etilene, che è il monomero da cui deriva il polietilene, quindi che poi è il mattone principale di tutta la chimica. Nel mese di marzo i prezzi sono di nuovo in risalita dopo essere precipitati verticalmente a meno di quello che era il loro valore all'inizio del 2000, della metà del loro valore dell'inizio del 2008. Quindi l'etilene, che in effetti per voi è come parlare del prezzo del calcestruzzo per l'edilizia, l'etilene era crollato del 50% come prezzo, adesso sì, sta risalendo. Più del 50% era crollato, invece nelle negoziazioni per il mese di marzo i prezzi sono in risalita, erano scesi addirittura sotto i 500 euro la tonnellata e si stanno riportando sopra i 600. E questo è interessante perché sono sempre indicatori indiretti di come si sta muovendo congiunturalmente il settore. Tra l'altro, sul fronte dell'occupazione, visto che veniamo da questa previsione molto molto tetra sui 6 milioni e passa di disoccupati, voi avete grossi problemi di cassa integrazione? Sicuramente non abbiamo ancora dei dati a consuntivo, però sappiamo che ci sono un numero importantissimo di nostre aziende che hanno chiesto trattamenti di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, eccetera, quindi questo è un dato che possiamo poi dare sempre con un certo ritardo. Per cui sembrerebbe che da qualche informazione preliminare che le ore di cassa integrazione dovrebbero essere circa 5 volte quelle dell'anno scorso, cioè da 400 diciamo al 500% in più. Sì. Vabbè, non è una bella cosa, questo lo dico anche a chi scrive oggi, la sentiamo più ottimista. Ragazzi, cioè, si cerca di capire se sia tutto messo così male o c'è qualcosa che si stia salvando. Abbiamo appena sentito una parte della chimica, anche quella legata alle cosmetiche, va un po' meglio. Poi quando parliamo di cassa integrazione, 4 volte, 5 volte quella dell'anno prima, sicuramente un quadro non roseo, anzi molto molto pesante. Abbiamo anche letto cosa diceva la Banca Mondiale oggi e la stessa Commissione Europea, la peggiore recessione dal 45, il segno meno. Poi volete il commento sulle parole di Berlusconi? Per favore, non facciamo commenti politici, ognuno li ha sentiti e può pensare quello che vuole, che l'Italia si è messa meglio, che l'Italia si è messa come gli altri o peggio degli altri. Il ragionamento politico è molto chiaro e anche, diciamo, l'obiettivo politico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berlusconi per chiudere questo approfondimento sulla chimica. Alcuni di voi ci chiedono: ma quando parlerete del settore dell'edilizia? Un po' per volta, non è che possiamo fare tutto in una puntata. Lo stiamo facendo con il presidente Federchimica Giorgio Squinzi. Dopo i dati anche pesanti, meno 20, meno 50% nei fatturati, nella produzione per i settori più esposti, più 400% la cassa integrazione, settori invece che tengono molto di più. Non vorrei, presidente Squinzi, dimenticare un aspetto che chiaramente la crisi ha posto in secondo piano: la sicurezza sul lavoro. Perché nel 2007 l'intera industria manifatturiera italiana, senza tener conto dell'edilizia e del settore servizi, ha avuto 313.000 infortuni con 536 morti. Ora, è chiaro che sia passato un po' in secondo piano, però ora come ora voi venite in realtà da un 2007 in cui avete avuto un miglioramento nella sicurezza sul lavoro. La chimica è un settore delicatissimo su questo fronte, come immaginate tutti, come la siderurgia, come altri. Meno 5% è che ha significato purtroppo ancora 16 morti e 5.630 infortuni. Presidente Squinzi. Diciamo questo, la situazione si può sintetizzare in questo modo. Appunto poi stamattina abbiamo tenuto questo convegno molto interessante, che comunque il settore della chimica è un settore di eccellenza in Italia, sia in termini di infortuni sul lavoro che in termini di malattie professionali. E perché le imprese si sono impegnate veramente in maniera molto forte, tra l'altro in piena sintonia, in piena collaborazione con le organizzazioni sindacali, e c'è una collaborazione che ormai va avanti da 30 anni e quindi effettivamente ci siamo mossi, ci stiamo muovendo nella direzione giusta. È chiaro che nei momenti di crisi come questo potrebbe esserci un abbassamento di tensione nelle imprese, che porterà a scapito dell'attenzione su questo tipo di problematiche. Certo. Il convegno di stamattina proprio andava anche molto in questa direzione, di alzare l'attenzione, di sensibilizzare le imprese a non abbassare la guardia e a tenere duro e cercare di continuare a migliorarsi. Presidente Squinzi, un'ultima domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori al 349-238-6666. Torniamo invece al dato congiunturale sulla chimica, evidentemente ci sono alcuni dipendenti del settore in ascolto. I cali più forti, visto che nei settori più esposti, la chimica per l'edilizia, per l'automotive, si va dal 20 al 50%, lei che è anche presidente della MAPEI, i cali più forti li vede sulla domanda italiana, quella che si chiama domanda interna, o sulla domanda estera? Ce lo chiedono molti ascoltatori, cioè se è peggio il calo che arriva come esportatore. Per gennaio e febbraio direi che i risultati peggiori li abbiamo avuti in Italia, perché dei cali così forti del 32% in gennaio, del 17% in febbraio, sono probabilmente legati a dei fattori anche di tipo climatico, a un numero di giorni lavorativi inferiore di 2 in gennaio e di 1 in febbraio rispetto all'anno scorso, quindi la situazione italiana in questo momento sembra essere una delle peggiori. Direi che all'interno del gruppo MAPEI noi produciamo in 54 stabilimenti in 24 paesi diversi. In gennaio e febbraio la situazione italiana è stata una delle peggiori, superata solo la grande dalla situazione spagnola, dove il calo è nell'ordine del 50%. Grazie Presidente, e in bocca al lupo chiaramente al Presidente di Federchimica, quindi l'industria della chimica italiana, Giorgio Squinzi. Crepi il lupo. Arrivederci a lei. Ciao. E adesso chiaramente i mercati finanziari, la campanella, ormai li spostiamo sempre più in là, perché tanto quando Milano perde comunque due punti e mezzo più del resto d'Europa, continuiamo a dover parlare di borse in senso negativo, e soprattutto per i bancari. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, faremo dopo il GR il caso Tiscali, lo dico a chi ci scrive, e avremo un approfondimento anche su questo. Tiscali oggi è sprofondata dopo l'interruzione dei rapporti per l'accordo con BSKB, ha perso il 47,6% e a 15 centesimi di euro. Ti chiedo solo un aggiornamento, Eleonora, ci sono novità? Quanto alto è il rischio, diciamo, di arrivare a una così a un'insolvenza completa? Al momento non ci sono novità ufficiali, ovviamente la borsa teme il peggio e per questo ha fatto crollare i titoli a un livello molto basso. Sul finale, infatti, come hai detto tu, le azioni sono letteralmente crollate. Sì, poi sospesa alle 2:30 di pomeriggio, forse non l'ho detto, poi riammessa nella parte finale. Comunque, prego. Si è trattato pochissimo, è sempre stata in asta di volatilità, meno 47,6% il bilancio finale, a 0,15 euro per azione. Vabbè, parleremo dopo di Tiscali. Adesso andiamo a capire perché di nuovo Milano ha perso due punti e mezzo più del resto d'Europa, nel senso che Francoforte ha guadagnato lo 0,70, Londra ha guadagnato lo 0,35, Parigi ha perso lo 0,6, Milano ha perso il 2,12% sull'S&P MIB e l'1,80% sul MIBTEL. Guarda, la ragione è sempre la stessa. Innanzitutto sull'indice milanese pesano molto banche ed assicurazioni rispetto agli indici del resto d'Europa. In secondo luogo va detto che a Milano sono presenti molte correlazioni tra i titoli. Un esempio concreto, Mediobanca detiene il 14,6% di Generali. Ovviamente nell'ultimo mese le Generali sono andate malissimo, hanno perso il 40% del proprio valore e trascinano in basso anche le quotazioni di Mediobanca, che non a caso oggi ha accusato un tonfo del 9,5%. In aggiunta, scusami, Eleonora, ma se ne accorge oggi il mercato della partecipazione tra Mediobanca e Generali? Generali è un paio di settimane che va molto male e oggi è sceso sotto i 10 euro per azione. Cioè, no, è come se ci fosse un po' di schizofrenia. Ti accorgi, ti svegli la mattina e lunedì e dici: ah, tra l'altro c'è una partecipazione interessante tra Mediobanca e Generali, chiedo. No, certamente no. D'altra parte considera che nell'ultimo mese Mediobanca aveva fatto un po' meglio. Mediobanca ha lasciato sul parterre il 30%, Generali circa il 40%, nelle ultime sedute Generali, come hai detto tu, ha accelerato al ribasso. Oggi quindi si è andati a vendere Mediobanca senza dubbio, poi con schizofrenia, però anche a ragion veduta, proprio sulla base, considerando l'andamento delle partecipate. Allora, Mediobanca meno 9,55, diciamo Generali sotto i 10 euro operazione, 9,99 euro, meno 4,22%. I volumi come sono stati? I volumi sono abbastanza vivaci, diciamo così. Ecco, volumi vuol dire il numero di transazioni, di compravendite, sì, sul mercato. In linea con le ultime sedute, però su alcuni titoli è addirittura più elevato, e questo perché, come sostengono i trader, può essere indice del fatto che effettivamente alcuni fondi comuni sul timore dei riscatti, o segnalano sempre i trader, compagnie assicurative, può darsi che in questi giorni stiano diciamo vendendo azioni sul mercato. No, perché anche lì c'è un po' di polemica politica sui volumi della borsa. Allora, dopo il GR affrontiamo gli altri titoli, e mi riferisco non solo al Banco Popolare, che continua a scendere ed è arrivato a 1,87 euro, meno 9,6%, peggior titolo in assoluto, e poi c'è anche un taglio dei giudizi, vabbè. E poi la Banca Popolare di Milano male anch'essa. Bene invece Saipem, che porta a casa un non indifferente più 3,25%, Tenaris più 2,5%, Eni più 2%, Mediolanum più 1,6%, Unicredit più 1,4%, Geox più 1%, Bulgari e Snam mezzo punto percentuale di rialzo. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'aggiornamento dalla borsa. Poi parleremo ancora di titoli, ma non come cronaca, in una giornata appunto che ha visto le borse europee, lo dico chi si fosse permesso in collegamento, chiudere quasi tutto in positivo, tranne Parigi meno 0,6, però Francoforte più 0,7, Londra più 0,4, l'America adesso sta di nuovo perdendo meno 1%, Milano però meno 2,2 sull'S&P MIB e meno 1,80 sul MIBTER, si diceva dei bancari. E allora, Eleonora Micheli, al di là di Mediobanca meno 9,5 e Generali meno 4,2, il Banco Popolare, e qui non c'è un intreccio, diciamo, di partecipazioni, perde il 9,6%, scende a 1,87 euro, e anche la Popolare di Milano perde il 6,3 e scende a 2,77 euro. Sì, peraltro come curiosità possiamo dire che proprio sia Banco Popolare che Popolare di Milano sono i due istituti che da metà febbraio sono scesi sotto il loro livello del prezzo nominale e si allontanano ovviamente ogni giorno di più proprio dal livello del prezzo nominale. Detto questo, il Banco Popolare ha risentito anche dell'andamento della partecipata Italease, che ha perso oltre il 9%, ci si interroga sul futuro della società, soprattutto a seguito di alcune indiscrezioni di stampa che hanno sostenuto che i soci si sono confrontati su un eventuale progetto di delisting e spezzatino dell'istituto. Poi sono piovuti anche una serie di giudizi negativi, UBS infatti ha rivisto al ribasso il giudizio sul Banco Popolare e anche Citigroup ha rivisto al ribasso la valutazione, quindi questo ha dato il là a vendite più pesanti rispetto ad altre banche. Ecco, come sempre in questi casi una nota: UBS è una banca che ha portato a casa decine e decine di miliardi di svalutazioni per gli investimenti in prodotti tossici. Citigroup è una banca che è ancora a rischio tenuta e nazionalizzazione dello Stato. Vedere che continuano a dare giudizi su altre banche quando non sono stati capaci di darle sulle loro banche ci lascia sempre perplessi. Magari avessero guardato un po' di più nel loro giardino di casa, che non vuol dire nulla, ma insomma è un po' strano. Andiamo avanti con i titoli. Bene oggi l'energia, il petrolio in forte rialzo rispetto agli ultimi valori, $48 per barile, e si spiega così la chiusura dell'Eni, che ha guadagnato alla fine della seduta il 2%, e anche Saipem più 3,25%. Esatto, infatti il petrolio si attesta più o meno ai massimi da 2 mesi, in vista ovviamente della riunione dell'OPEC, e quindi questo ha dato in là un po' a tutti i titoli del comparto petrolifero. Unicredit, oggi in controtendenza più 1,4%, per carità, quota ancora 73 centesimi, ma è interessante vedere che è l'unico titolo bancario di quelli grossi ad aver chiuso in positivo. Sì, assolutamente sì, i titoli hanno rialzato la testa soprattutto nel pomeriggio. Diciamo che Unicredit si muove spesso seguendo l'andamento delle concorrenti tedesche, visto che è molto presente in Germania, e proprio oggi ricordiamo che Deutsche Bank a Francoforte ha registrato un progresso di oltre il 6% sulle parole del numero uno dell'istituto Ackermann, che ha fornito indicazioni positive anche per i mesi a venire. Altri titoli, Tenaris più 2,5%, scusate, Geox più 1%, Bulgari più 0,6%, Snam più 0,3%, bene anche Mediolanum più 1,6%. Chiudiamo con una nota su Tiscali, a questo punto, di cui abbiamo già detto, salta l'accordo con BSKB, il titolo perde il 47%, sospeso per buona parte della seduta dalle contrattazioni, quota 15 centesimi di euro. Esatto, come hai detto tu, ovviamente ci sono dubbi su quella che è la continuità aziendale della società da parte della borsa, per questo gli investitori hanno spinto in basso le azioni con una serie di ordini in vendita. Quello che preoccupa infatti è il fatto che venerdì scorso i vertici dell'azienda sarda abbiano affermato di intendere chiedere alle banche di concedere un periodo di sospensione dei pagamenti di interessi, quote capitali e covenant, e poi hanno detto che ovviamente verrà rivisto sia il piano industriale che il piano finanziario della società per ristrutturare l'indebitamento. Grazie, Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso, prima di aprire una pagina di analisi sulle banche, ma non solo, su quello che sta capitando sul mercato, su Piazza Affari, che continua anche oggi a perdere un paio di punti più del resto dell'Europa, ripercorriamo alcune notizie in breve, e una notizia che ci ha lasciato piacevolmente sorpresi, ossia una banca grande che annuncia un piano di assunzioni. Le notizie in breve sono di nuovo, riguardano di nuovo la crisi, lo dico a chi si fosse appena messo in collegamento, perché da un lato oggi la Banca Centrale Europea, per voce del Presidente Trichet, ha detto nel 2009 la crescita globale sarà pari a zero. L'economia resta infrenata, ma arrivano alcuni elementi positivi che forse sono ancora sottovalutati dal mercato, per esempio il calo delle materie prime e anche l'effetto, l'impatto che potrebbero avere i piani di rilancio messi in campo dai vari governi. Ricordavamo, è da mesi, da agosto, che non sentiamo ricevere qualche elemento positivo. Nel giorno in cui però la Commissione Europea, attraverso il Comitato per l'Occupazione e la Protezione Sociale, stima in 6 milioni il numero di disoccupati in più nel 2010 se non verranno prese iniziative tempestive e mirate, così dice la Commissione Europea. Il giorno dopo la previsione della Banca Mondiale, uscita infatti ieri, in cui il commercio mondiale dovrebbe avere la maggiore flessione quest'anno degli ultimi 80 anni, e l'economia mondiale per la prima volta dal 1945 dovrebbe contrarsi, ossia ridursi. Delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi abbiamo già ascoltato ampiamente alcuni passaggi. Berlusconi ha detto: non ci saranno situazioni di miseria, siamo un popolo di risparmiatori, siamo messi meglio dell'America, abbiamo la cassa integrazione e la sanità pubblica. Agli imprenditori ha detto Berlusconi: l'invito a non leggere i giornali, ad avere maggiore fiducia, e ai cittadini a non cambiare le proprie abitudini economiche. Prima di arrivare a notizie più pesanti, mi riferisco appunto a quelle che riguardano i titoli bancari, oggi ci ha sorpreso una notizia, ossia il gruppo Intesa San Paolo, che è uno di quelli che ha perso tra il 70 e il 75% del suo valore di borsa, eppure ha annunciato 1200 assunzioni. Fino ad ora le assunzioni le abbiamo viste soprattutto a livello europeo da parte di IKEA piuttosto che di McDonald's o di H&M, cioè chi lavora nei settori low cost, chiamiamoli così. E vogliamo capire allora da dove arriveranno queste assunzioni con il responsabile delle risorse umane di Intesa San Paolo, dottor Marco Vernieri. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Dunque, dottor Vernieri, ci faccia capire, voi avete avuto a fine 2008 7.000 esuberi, però anche 5.000 nuovi ingressi, sì. Ma la cosa che a noi ha sorpreso è che nonostante le difficoltà del titolo in borsa e dell'andamento comunque del settore bancario, quest'anno assumerete 1.200 giovani, ce lo può confermare e anche dove? Sì, beh, questa è una stima di minima relativamente a quelle che prevediamo saranno le nostre occorrenze nel corso del 2009. Le assunzioni le prevediamo quasi esclusivamente sulla nostra rete commerciale e su tutto il territorio nazionale. Ci sono poi alcune aree in cui probabilmente ci sarà una maggiore concentrazione, ma grosso modo copriamo tutto il territorio nazionale. Questo è possibile grazie a una politica di gestione dei nostri organici che ci ha consentito di pianificare le uscite per turnover e per maturazione dei requisiti per il pensionamento anno per anno e quindi anche per l'anno 2009, tali da consentire quindi per la copertura di queste posizioni il numero di assunzioni che lei ha citato. Che adesso io non voglio sostituirmi alla collega Roberta Pelegatta, che già conduce egregiamente uno spazio dedicato alle informazioni e alle offerte di lavoro, ma questi giovani che tipo di contratti avranno e che funzioni dovranno svolgere? Perché? Sì, come le dicevo prima, si parla di assunzioni per copertura di posizioni commerciali, quindi assunzioni che prevediamo di inserire nella nostra rete di filiali sul territorio, sostanzialmente operazioni e inserimenti su posizioni commerciali. Il contratto di lavoro che noi utilizziamo è il contratto di apprendistato, che differentemente da quanto è detto comunemente sono contratti di lavoro a tempo indeterminato e rappresentano dei contratti di lavoro di inserimento nell'interno del settore bancario. Grazie a un accordo fatto in sede di rinnovo del contratto nazionale, questa forma contrattuale che consente talune agevolazioni sul piano contributivo al tempo stesso non si configura come un'assunzione di tipo precario, ma anzi prevede il piano inserimento negli organici delle aziende del settore bancario. Beh, in bocca al lupo, oltre che a voi, visto che abbiamo fatto anche la chimica, soprattutto questi ragazzi, 1200 giovani, grazie al responsabile di risorse umane del gruppo Intesa San Paolo, Marco Vernieri. Grazie, arrivederci a tutti. Chiusa questa piccola parentesi, ma ci sembrava curioso, ripeto, che al di là dei gruppi come McDonald's, IKEA, H&M, ma che un gruppo come Intesa assumesse... Ultima parte di Focus Economia e allora, grande richiesta anche di alcuni ascoltatori, torna ai nostri microfoni Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Buonasera Walter. Buonasera a tutti. Il pezzo che l'hai scritto l'abbiamo anche ampiamente citato venerdì scorso, la domanda di fondo la ponevo prima delle informazioni per chi è in viaggio. Intanto, perché noi continuiamo, poi arriveremo ai casi del Banco Popolare e di altri titoli, ma perché noi continuiamo a perdere ormai da intere sedute due punti e mezzo più in borsa delle altre borse europee e anche americane, soprattutto per colpa del settore bancario, e visto che si è sempre detto che le nostre banche sono messe meglio di altre, che le nostre banche non parlavano bene l'inglese, che le nostre banche non avevano tutta questa robaccia che hanno avuto le banche tedesche, britanniche, svizzere e chiaramente quelle americane. Ecco, hai perfettamente ragione, abbiamo perso l'indice bancario italiano, ha perso tanto quanto quello europeo, il quale ha perso più o meno tanto quanto quello americano. La cosa è molto strana perché in Italia, in effetti, il sistema bancario italiano è in miglior salute, oppure diciamo non è in cattiva salute quanto lo è quello americano, quello inglese, quello irlandese, olandese e forse anche quello tedesco. Allora, infatti, le banche italiane non hanno ricevuto un centesimo fino adesso dal governo. E se riceveranno una parte dei Tremonti, cosiddetti Tremonti bond, è una sorta di finanziamento, non è un'iniezione di capitale e probabilmente è semplicemente momentanea. Cioè non è Citigroup che ha già divorato 60 miliardi di capitale dello Stato, 60 dai fondi sovrani e 300 miliardi di finanziamenti della Fed, no? Ecco, questa è la situazione estrema, ma Bank of America non sta molto meglio. Ma la stessa UBS, gli inglesi, la Lloyd, la RBS non stanno assolutamente. Queste sono banche che, se non ci fosse stato l'intervento del governo, sarebbero tutte fallite. E una situazione pericolosissima è anche Deutsche Bank. Eppure le banche italiane non sono in una condizione paragonabile a queste, eppure hanno perso tanto e adesso stanno perdendo da 2-3 settimane più delle altre d'Europa. Quindi io devo immaginare che ci sia sotto un fattore tecnico, qualche vendita forzata o derivata da meccanismi di protezione, eccetera. Gli stessi operatori, che sono tra l'altro i 2-3 più importanti di Piazza Affari, non hanno una visione chiara, no? E anche questi ipotizzano qualche operazione straordinaria di questo tipo, pacchetti che stanno uscendo, quindi una sorta di vendite forzate. Fatto sta che la situazione è abbastanza pesante, perché poi più si scende più saltano dei parametri di valutazione, eccetera, e quindi c'è il rischio che si inneschino altre vendite, quindi è una specie di circolo vizioso. In realtà non sembrano esserci motivazioni fondamentali sotto, se non magari per il Banco Popolare che... E adesso arriveremo. Quindi tu dici c'è un elemento anche tecnico, che, visto che le nostre banche non hanno dichiarato perdite e svalutazioni nemmeno paragonabili a quelle delle tedesche, delle inglesi, di qualche francese e delle americane, e visto che non stanno facendo ricorso ai 10 miliardi, che comunque sarebbero rispetto al panorama europeo e americano poca cosa, se pensiamo a quanto è costato per il governo britannico, per esempio, comprarsi il 70% di Royal Bank of Scotland, HSBO e via dicendo. HSBC, scusatemi, e via dicendo. Ma se non c'è un motivo di conto, c'è un motivo tecnico. Qualcuno sta vendendo interi pacchetti del settore bancario italiano. Fino a che punto, a tuo avviso, potrebbero scendere questi titoli? Poi parliamo del Banco Popolare. Non so fino a che punto possono scendere, non lo so, come, ma perché come eravamo nel marzo, il livello di libro ormai, di quello che hai scritto, il libro siamo sotto, Unicredit sarà al 18% 17% del valore di libro, no? E Intesa San Paolo, che è una delle più solide d'Europa, sarà al 35% del valore di libro, quindi sono valutazioni che ricordiamo anche cos'è il valore di libro, perché il valore di libro è il patrimonio della banca, il patrimonio netto, no? Dovrebbe ragionare magari più su quello tangibile, però sostanzialmente diciamo che poi storicamente, ma torniamo indietro di 15-20 anni, prima di questa euforia finanziaria eccetera, all'inizio degli anni 90, le banche valevano non meno di una volta il patrimonio netto. Valevano tipo 0,7-0,8 le banche popolari, perché non erano contendibili, ma una banca normale, una SPA, valeva una volta almeno il patrimonio. Adesso siamo a valutazioni che sono 2 o 3 volte più basse. Cioè il valore di borsa, per dire in maniera un po' imprecisa, non rispecchia nemmeno quelli che sono i patrimoni. Una banca non è che abbia solo sportelli, ha immobili, ha anche gli sportelli, ha tutto un insieme di valori che mette a libro, che mette a bilancio. Di solito il titolo deve valere almeno rispecchiare quel valore lì, perché se domani inizia a vendergli, ma nemmeno quello. Ultima domanda invece, il Banco Popolare, perché qui il caso è leggermente diverso. Se vogliamo unire anche un tuo commento su Mediobanca, che oggi ha perso il 9,5, però il Banco Popolare mi interessa particolarmente. Ecco, Banco Popolare, qui potrebbe esserci una ragione, le preoccupazioni sono tutte su Italisa, ci sono voci che già circolavano da giovedì sera della settimana scorsa sul possibile fallimento di Italisa. Improbabile che in Italia si faccia fallire una banca, però questo qui dimostrerebbe, ed è probabilmente, che la situazione di Italease è talmente critica e talmente tesa che una soluzione verrà trovata per evitare, per scongiurare il fallimento, verrà fatta acquistare dal Banco Popolare, il quale si troverà comunque con altre passività, e quindi a questo punto il Banco Popolare avrà bisogno non solo di Tremonti Bond, si parla di più di 2 miliardi di sottoscrizioni di questi Tremonti Bond, ma si parla anche di qualche aumento di capitale, no? Quindi le preoccupazioni sul Banco Popolare possono essere giustificate, per quanto insomma le valutazioni che esprime la borsa sono valutazioni da fallimento, e non si pone il problema, no, per il Banco Popolare, no? Sì. Non si pone, perché non esiste che possa fallire una banca che racchiude dentro. Non può fallire nessuna banca in Italia, però a maggior ragione una banca che è il frutto della fusione tra la Novara, la Verona e la Lodi. Immaginiamo un numero di sportelli, dovrebbe essere la quarta banca. Era la terza banca come attività, poi come capitalizzazione UbiBanca è più grossa ora. Un'ultima domanda, Mediobanca, se riusciamo a commentare, meno 9,5 con Generali meno 4,2%, qui sembrerebbe soprattutto l'intreccio azionario, l'incrocio azionario. Perché poi tra l'altro la settimana scorsa e anche quanti quest'oggi la debolezza forte era nei titoli assicurativi, e ricordava un po' quello che era successo nel marzo del 2003, quando era la fine di quel trend di ribasso di borsa che era iniziato dopo la primavera del 2000, quello in seguito alla bolla speculativa di internet e dei tecnologici. Proprio verso la fase finale della discesa delle borse, gli assicurativi europei in quel caso perdettero tipo il 30-35% in un mese, mentre l'indice generale cominciava già a risalire. Quindi c'è qualcosa, qui si ipotizza che il margine di solvibilità delle compagnie rischia di assottigliarsi e andare sotto i limiti, per cui sono scattate delle vendite, o forse vendite stesse di protezione a certi prezzi, e quindi questo qui ha determinato il calo qui, certo, di Generali e di conseguenza quello di Mediobanca, maggior azionista di Generali, che è la Mediobanca. Un'ultima cosa, una nota: alcuni scrivono del goodwill, ossia quanto in alcune fusioni, pensiamo a Capitalia, Unicredit, ma non solo, anche Intesa San Paolo, si fossero messi a bilancio carta su carta i valori di allora, e adesso non sono più, l'abbiamo già accennato, è vero, c'è anche questo, le operazioni valutate 2 anni fa, ora quei valori lì non hanno più nessun riferimento nel mercato. Grazie Walter Riolfi, da Sebastiano Barisoni l'auguro a voi in ascolto di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.